ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Sara, Marzi e Zino, e alla parte tecnica Simone. Une. Eccoci qua, ben ritrovati, buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di... Ciao simpatici amici, piu, piu, piu, piu. Ecco. Dal 1976, pensate che pazienza che avete avuto. Siete ancora qua. E sta sparando tutto. Tutte ora e poi si addormenta. Era lì, lo vedevo tentennante. Sì, perché parto di rincorso stasera. Benvenuti cari radio ascoltatori. Senza dire il titolo della trasmissione. Ma ormai è diventato un movimento. Il centro di un movimento di tendenza ormai. Certo. Bene, direi che possiamo andare allora con il primo pezzo. Simone c'è, eccolo qua, forse arriva. E allora andiamo. Del mattino, metà febbraio, ci tengo ad essere preciso sempre nell'orario. Uscito dal lavoro da pochi minuti, giusto in tempo per raccogliere sopravvissuti che dalla nebbia fiorano come fantasmi e con le palle in mano filano le armi. E ci guardiamo in faccia sempre raramente, perché il risultato è spesso deludente. Che certe notti qui si fa un po' di cagnara, cantava quello che da Mario non ci lavorava. Che certe notti qui io rischio seriamente che poi la notte dopo sia nulla tenente. In piazza c'è casino senza una ragione, un pugno di ragazze e qualche marchione, e tutti a farsi belli perché a quest'ora finire a scopare è l'unica chimera. Ed i trentenni restano come i ventenni, ed i ventenni spacciano ai trentenni, e le trentenni scopano coi diciottenni, e i quarantenni sognano le quindicenni, ed i baristi litigano coi rumeni. Ehi tu, vieni a vedere che bello che è, nonno, questo è il paese che hai fatto te. Ci vediamo tutti quanti in via Postumia, con la testa bassa ed una Coca-Cola, che io lavoro giusto per tenermi in vita. Sai cosa me ne frega dell'Europa unita, del 7,40 la differenziata. Alzate l'IMU, tanto io non avrò mai una casa, neanche 30 anni, e come quasi tutti quanti il futuro me lo bevo per non pensarci. In fondo sono dei perdenti, delle coppie escono con altre coppie, e gli studenti affittano delle altre doppie, e mia madre canta alla televisione. Ehi tu, vieni a vedere che bello che è, nonno, è questo il futuro che sognavi te. dall'ultimo album degli Zen Circus, dal titolo Canzoni contro la natura, abbiamo ascoltato Possumia, e questo è un tributo che Simone si è autovoluto fare da solo. Ma una cosa che dà fiducia è il fatto che sia l'ultimo album. Guarda, no, guarda, invece questa volta spezzo una lancia, perché gli Zen Circus, io sono un ignorante totale sulla musica, e ormai sono 26 puntate che si sottolinea questa cosa, però devo dire che Simone me li ha fatti conoscere, l'ho ascoltati, e anche mi ricordo la puntata precedente al Natale, abbiamo ascoltato un altro pezzo memorabile, certo, e sono le musiche interessanti, i testi ancora di più. Ma anche guarda, Marzi adesso, se lo ricorda, ti dirò che da, da quell'ascolto io sono cresciuto, tant'è vero che il mio analista non più quattro sedute alla settimana ma 5. Ma 5 tutti i feriali, perché a c'è posto, un omaggio, è un omaggio. Ma perché siamo Sara, qui? Sara, aiutaci te. Dopo gli Zen Circus, va bene. Allora, tornando a noi, perché siamo qui? Per raccontare aneddoti, storie, per parlare di Foiano, per ricordare anche ma bei soprattutto momenti. Personaggi. Personaggi, sì. Oggi però ce ne sono tanti. Oggi non mi sfugge niente, per i prossimi 30 secondi poi l'orzino funziona. Sì, certo. Era preso al volo. Ginger. Ah, bene, a posto. Quindi, innanzitutto, siamo su Radio F. Esatto. Ah, ok, no, sì, questa è Piazza Alta. E come possiamo ascoltare Piazza Alta? Continuo. Ma in innumerevoli modalità. Quanto mi mamarsi, dai. Mettiamo allora, delle frequenze. Nella maniera tradizionale, accendendo la radio e sulla frequenza 101.2. Benissimo. Ci potrete ascoltare via etere. Ok. In streaming su www.radiof.it. Su abbiamo lasciato una V e un punto, ma non importa, tanto lo sanno i nostri amici. E oppure scaricando anche la nostra app, sia per Apple che per Android. Android. E la app si chiama? Dai, ora lo sai, è 26 puntate. Radio E. Grandioso, grandioso. Ma poi abbiamo la pagina Facebook sulla quale tutte le settimane, oltre al poter riascoltare tutte le puntate e da domani quindi anche questa per chi non se la potesse ascoltare stasera, abbiamo un sacco di appuntamenti, tra i quali lunedì da Leone, i consigli per il weekend che cura il nostro Simone che ci sta per salutare. Ciao Simone. Ciao a tutti. Viva. Stasera è gasatissimo, anche rilassato, lo vedo. Sì, soprattutto. Sì, sta un po' sudando però. Ma l'argomento della serata lo annuncia la Sara però, perché Sara mi sembra l'istituzionalità. Allora, stasera innanzitutto una puntata tutta musicale, e poi parliamo di uno dei vanti del paese di Foiano, ovvero la Filarmonica Mascagni, ovvero la banda di Foiano. E abbiamo già sentito in voce il nostro ospite, che nonché presidente della Filarmonica, Paolo Bernini, ma detto lo stregone. Certo, buonasera, ciao Paolo. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Benvenuto a Piazza Alta. Io. Tra l'altro, benvenuto a Piazza Alta, ce lo dovresti dire te. Perché voi siete venuti in casa mia, io sono nato qui a due portoni qua, sì sì, la Santissima Trinità numero 8, e noi siamo all'11 mi sembra, quindi siamo proprio siamo lì vicini, siamo quindi lui ce l'ha da raccontare sul piazza. E hai ragione grazie giusto. grazie dell'ospitalità. Sembrava giusto fare questa precisazione, perché, allora con Paolo parleremo della banda, però lo facciamo dopo un altro brano. Passiamo un altro brano, così io mi rilasso, così tu ti rilassi e poi si parte, raccolgo qualche idea. Bravo, perché l'ho lasciato giù per le scale. esatto. Allora direi andiamo con il traffico. 26esima puntata di Piazz'Alta. Allora, la canzone è Daus e il gruppo di IIV. Va detto così, okay. C'ho Simone che mi ha anche indicato come pronunciarlo e quindi... Certo, ma però, nella bassa valdichiana. Ma d'altro il nostro ospite Paolo, lo stregone, li conosce benissimo, sì, i DIIV, come me. Poi ho studiato parecchio. Al conservatorio mi sembra che eravate in due classi parallele. Sì, no? Sì, due classi parallele. Uno fuori e quell'altro da quella classe. Due strumenti diversi. Sì. Perfetto. Vabbè. Ma torniamo a noi, abbiamo ricordato il nostro ospite, per chi si fosse magari messo in ascolto soltanto adesso, lo ridiciamo, è il presidente della Filarmonica Mascagni, Paolo Bernini, perché stasera parleremo della banda di Foiano. E allora, prima di sentire il presidente, Marzi, Enzino, che ci dite? Oh, allora guarda, io mi permetto e chiedo anche il permesso al presidente, certo, lo stregone Paolo Bernini, che poi non solo è presidente, ma questo ce lo racconterà, faremo 16 puntate sulla banda probabilmente. Preparatevi. Perché è anche ovviamente uno dei membri, come si dice, musicisti, uno dei musicisti della banda, ok, va bene, comunque diciamo che facciamo un breve riassunto dei primi 300 anni della banda, sì, ma velocemente, ma scherzi a parte, perché risulta dagli archivi che la fondazione della banda armonica, successivamente poi variata in Filarmonica Pietro Mascagni, risale al 1796, giusto? 1796, esatto, hai studiato. Grazie. E che giorno era? Era giovedì sicuramente. Giovedì sera. Non a caso. Giovedì sera, oltretutto. E dal 1000? Dal 1900? No, dal 1796. C'è una assonanza con Radio F. E come 1970. Dicevano al pubblico, buon ascolto. Dalle Filarmoniche Mascagni frequenze. E va bene. Ci perdoni Paolo, vero? Noi ci scherziamo un po'. Allora, Questa filarmonica nasce per iniziativa della popolazione e dell'amministrazione comunale, mentre del 1866 la stesura del nuovo regolamento per la riordinazione della società filarmonica, appunto. Sotto il nome di banda civica, con un organico di 50 elementi, fu dotata delle prime divise nel 1876. Esatto, perfetto. Quindi il presidente conferma il momento. Questo mi ricordo. I colori sociali avevano allora. No, allora i colori sociali non c'erano, però ricordo benissimo, forse qualche decina, 15 anni fa ancora c'erano dei berretti, sì, dell'epoca, sì. Ah. Quando è stata poi ristrutturata un po' la sala di musica, in un folder da qualche parte, in uno scatolone, c'erano i berretti dell'epoca. Bellissimo. Tarlati. Vabbè, forse anche il tarlo era dell'epoca. Ce ne deve essere ancora rimasto qualcuno. Beh. Non so, forse nelle mie soffitte può darsi qualcosa, ci sarà. Qualcosa che... Allora, se riesci a trovarli, poi ce lo fai sapere. Qualcosa ritrovo. Allora, intensa fu l'attività che sotto la guida dei vari maestri vide la banda partecipare a raduni, concorsi, manifestazioni varie in molte città della Toscana. Da menzionare in particolare, pensate, la partecipazione ad Arezzo, e questo secondo me ha un grande valore, all'inaugurazione del monumento in onore di Guido Monaco, perfetto, padre, sì, del pentagramma. Certo, e quindi voglio dire, bellissimo. Importante anche perché fino allora si suonava a caso. No, diciamo la piazza. Sì. No, la piazza non aveva qualcuno che al centro dirigesse il traffico, ecco, come riuscire a far ricadere immediatamente il senso musicale. Certo. Allora, fra i maestri che si sono succeduti, e poi di alcuni tra l'altro sono gelosamente custodite le partiture scritte a mano con data ed etica risalenti addirittura al 1880, sì, vero? Esatto, perfetto. Allora, possiamo menzionare dopo infatti ci dirai, possiamo menzionare il maestro Caiani, che sembra abbia scritto un'opera di particolare pregio, giusto? Sì, esatto, perfetto. Ci sono delle partiture veramente straordinarie, custodite abbastanza bene per quello che è possibile, certo, tenere golosamente e gelosamente. Stando attento a non pubblicizzare troppo. No, non dire altro. No, io rimango quasi stupito sul fatto che stiamo dicendo anche delle cose riscontrabili storicamente. Ma perché io ho attinto dai loro archivi? Non è? Nei primi anni del Novecento la banda civica si divise in due complessi, uno di Edipo e uno di Electra. Non fare così. Questa è l'influenza dell'analista. Uno dei quali nel 1912, in occasione di una visita a Foiano del maestro Pietro Mascagni, che si dice partecipò come direttore d'orchestra ad un concerto tenutosi al Teatro Garibaldi, assunse appunto la denominazione attuale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la società fu diretta dai maestri Romboli e Guarino, raggiungendo l'apice del successo dopo il 1936. Dopo la seconda guerra mondiale, la banda fu guidata dal maestro Dini e quindi dal maestro Faldelloni, che contribuirono a tenere alto il nome della filarmonica. Nel 1965 la direzione... E qui, attenzione, perché il presidente no, era già membro della banda, quindi poi ce lo racconterà. Certo, certo. La direzione fu affidata al maestro Lanfranco Borgogni, che ne curerà anche la scuola di musica. Punto. Il grande impegno e la passione è ispirato dal maestro Borgogni e con lui dalla società e dall'amministrazione comunale fecero tornare la banda degli anni 70 ad un organico di 50 elementi, quasi tutti giovani. Ma ci fermiamo qua perché il resto ce lo racconteranno. Ce lo racconterà il nostro ospite. Allora, prima di lasciarti del tutto la parola, cioè se vuoi dire qualcosa adesso lo puoi già dire, se no, prima di lasciarti del tutto la parola, questo era un cappello che volevamo fare. Vedere, i cenni storici sono perfetti. Ah, questo ci riempie d'orgoglio. Marzi e Insino. Una certa data poi ci pensi. Non ho bisogno del libro. Esatto. Qua. Allora, Sara, che facciamo? Mandiamo il terzo brano. Vedo che Simone è pronto. Intanto fa anche video. Salutiamo. Fa tutto Simone. Andiamo col prossimo brano e poi la parola allo stregone. Una pasta asciutta dopo. Sì, certo. Meteo. Quella del Luna Park, lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola, con le mani sporche di carbone, toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. Quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardini, era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente era malato perché perdeva sangue da un orecchio. Era una fila di prigionieri che camminando seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani senza guanti, ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno. La gente corse a casa perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, cintura, si amputò un dito. Tutti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna vive solo un bimbo appena nato, aveva occhi tonti e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani, e volò via, e volò via, era l'uomo di domani, e volò via, e volò via, era l'uomo di domani. Ripirirà, ripirirà, ripirirà. Grande della musica italiana con uno dei suoi brani più celebri. Abbiamo ascoltato Lucio Dalla con L'ultima luna. Vedo la luce negli occhi di Marcello brillare perché finalmente ha ascoltato una canzone che conosce. D'altronde sì, ma infatti ma ti dirò, ti potrei stupire, probabilmente su Lucio Dalla e su qualche altro cantatore italiano potrei anche darmi lezioni. Sì, esatto. Sì, ma infatti dopo le prime note Marzi ha detto subito questo è solo Lucio Dalla, ma dopo l'incipit proprio ma passiamo da un maestro. Ti potrei dire anche come si chiamava la sua prima barca, ma non te lo dico, ma bravo, perché non è radiofonico, ma chi è un cultore sa di che parlo. Sì, allora però passiamo da un maestro a un altro. Rientriamo a noi. Bene. Il maestro che abbiamo in studio è lo Stregone Paolo Bernini, presidente della banda La Filarmonica P. Mascagni di Foiano. Allora, da ora in poi, Paolo, siccome ci siamo presi un caffè prima di venire su, ma hai già raccontato tante cose, sono convinto che potremmo starci delle ore qua. Sì, certo, ma però cerchiamo di sintetizzare. Diciamo le cose più semplici. Insomma, inizia te dicendoci un po' te, la tua storia dentro la banda. Ecco, allora io devo cominciare dall'inizio, perché io sono entrato in banda nel 1956. Solamente. Molti di voi non erano neanche pensati che potessero venire al mondo. Il mio ingresso nella banda è stata una cosa spettacolare. Due episodi importantissimi. Il primo episodio è questo qui, che ho dovuto fare tanto di quel solfeggio. Perché? Perché all'epoca, per entrare in banda, e per avere uno strumento bisognava che morisse qualcuno, perché gli strumenti non c'erano, i presupposti erano chiari. Quindi se moriva uno prendevi lo strumento, io avevo voglia di suonare la tromba, non moriva nessuno, passiamo al trombone. È un po' come era un po' come una volta si facevano i sacrifici umani, no? Per accedere all'età adulta non moriva nessuno. All'allora maestro Faldelloni Otello, visto che io non scalpitavo, non ce la facevo più, non poteva farmi ripetere ancora il buono, un'altra volta proviamo a metterti questo tamburo a vedere se ce la fai andare al passo a camminare. È andata così che ho messo il tamburo. Ti sei dimenticato tutti gli altri strumenti. Mi sembra poi di capire che il solfeggio per il tamburo sia una delle cose fondamentali. Tutto è fondamentale. Il solfeggio è la musica, anche per suonare il triangolo, qualsiasi cosa, la musica va letta. Altrimenti si va con la fantasia, ma con la fantasia basta. Non serve anche qualche cos'altro. E quindi hai preso questo tamburo che però mi dicevi essere precedente. Il tamburo, la storia dice, la mia povera mamma disse che era del suo prozio addirittura, ci sono delle foto. Il tamburo è lo stesso, c'è sempre. Naturalmente io l'ombra la facevo in tutti i modi perché ero sempre fino come uno spaghetto, peso zero. E questo tamburo era pesissimo, proprio avevano cercato di scorciare la bandoliera, però ciononostante ci voleva qualcuno che di dietro lo teneva su alto. Sì, perché non ce la facevo, era di tutto impossibile. Il mio primo maestro di tamburo era stato il Baini, una persona eccezionale, che mi ha sentito una volta, due alle prove, dopodiché mi ha detto ora vai da te che io smetto, è andato così. Quindi nel 1956 sono entrato in banda. E la prima cosa che mi ricordo è la golosità, perché sentivo parlare, guardate, noi eravamo nati io sono stato qui in piazzata dove si fischiava parecchio. Più che mangiare. Più che mangiare si fischiettava. Sentivo parlare della bistecca, questa famosa bistecca. In casa mia non si sapeva mai come scrive bistecca. Che sarà, che non sarà. Che sarà, che non sarà questa bistecca. Però succedeva che a fine anno, quindi il 22 di novembre per Santa Cecilia, la banda praticamente fa la cena. E all'epoca passava il presidente, che era il Beccherini, diceva pasta asciutta, bistecca, pollo o minestra. Ovviamente aspettavo il mio turno per dire bistecca. Chiaro. Ma devo dire che è stata un po' una delusione, forse era una bragiolina, non lo so. Ma era una cosa. Quindi, e diciamo, questo è stato, diciamo, uno dei motivi scatenanti per rientrare. La prima esperienza che mi viene in mente di quel periodo là. Periodo bellissimo, perché tra l'altro si faceva le prove e alle prove c'era il custode, chiamiamolo così, che era uno degli alpini. Alpini sarebbe il babbo, lo zio, il nonno del nostro carissimo Cittone. Quindi una famiglia di Foiano, non famiglia di alpini, no, militari. Famiglia di Foiano, Piazza Altini, tra Piazza Altini, ecco. Passava con il fiasco del vino basso, ovviamente, no, di bassa macellazione, vabbè. un giorno quell'altro faceva fiori, un solo bicchiere, il primo goccino andava al maestro, il secondo andava a capobanda, che all'epoca era Borgogni, Samuele, nonno di Emanuele Borgogni. Dopodiché il bicchiere passava a tutti, un solo bicchiere, una scrollatina. Ormai io ragazzetti qui chi sera e questi vecchietti, qualcuno sì abbiamo capito, insomma, era bellissimo. Si saltava la bevuta. Però sono stati anni bellissimi, perché in quel periodo là ci siamo formati, c'è tanta gente che adesso purtroppo non c'è più, e che insieme però siamo dedicati a, era una cosa importantissima, tant'è che per entrare in banda bisognava fare prima la domanda al sindaco. Addirittura al sindaco? Domanda al sindaco, sì, andava fatta la domanda al sindaco, il quale il sindaco poi la passava al presidente, che dovevano visionare, poi ovviamente gli pareva il vero, perché però la procedura era questa: sindaco, presidente, che dava anche una certa istituzionalità, sì, alla cosa, quindi era una cosa seria, non si poteva andare alla scuola. Quanti elementi eravate all'epoca? Ma all'epoca, dunque, quando sono partito io, c'era, a parte le persone adulte, ormai vecchietti, dico vecchietti, ma insomma mi viene da ridere se ci penso ora, c'era una quindicina dei ragazzi che si era partiti. Tra l'altro c'era un documento che non si ritrova più, lo dicevo prima con Enzo, dove c'era un certo Sacco, aveva scritto che scriveva malissimo, aveva fatto la seconda elementare. Gli faceva la richiesta di iscrizione. Sì, io sottoscritto Sacco Nicola, fo domante al sindaco, perché mio figlio, fosse preso alla scuola di musica, cioè è sparito quel documento, è una cosa molto bella. Però era il periodo dove ha formato tanta gente che ancora oggi, per buona fortuna, sono qui. Questo è stato una delle prime cose che mi viene in mente. Ma poi ci sono degli aneddoti meravigliosi, stupendi. Ci fermiamo un attimo. Certo. Solo così lasciamo gli ascoltatori in sospeso, poi riprendiamo dagli aneddoti. Perché così c'è anche un po' di curiosità. Di suspense. A frappè. Response now. Kristen, cantautrice statunitense. Abbiamo ascoltato di questa cantautrice il brano. No, il rullante, no, maestro. Sì, sì, giusto. Il titolo, ha messo titolo. Ansia, adesso possiamo saltare il titolo. Non lo dico io, lo dico se io. No, Simone si arrabbia. Taking Chances. Peccato che con Sara ci siamo incontrati solo dopo 26 puntate. questo. Allora, prima di andare avanti, ricordiamo anche che possono vedere, non ci possono non solo sentire, ma ai voi potrete anche vederci sul canale YouTube di Piazza Alta e anche sulla pagina Facebook, dove Simone poi posterà il video di questa serata. I video sono fatti da Enzino e da Simone, ci stiamo alternando, ci stiamo organizzando anche per le foto segnaletiche della polizia postale. Marzi, noi dobbiamo darci da fare perché gli altri stanno lavorando e noi in che senso? Scusa? No. Me la sono cercata. Bene, tornando mi a tutta la sera che te li cerchi. Vai, a posto, benissimo. Ma io sono molto incuriosito dal nostro stregone che abbiamo qui stasera come ospite, perché abbiamo cominciato a parlare degli anni in cui lui ha avuto accesso a questa, alla banda di Foiano, e ci ha appena detto che erano una quindicina di elementi ed era piuttosto difficile entrare. Molto difficile. Solo una durissima selezione naturale riusciva a creare i posti effettivamente le opportunità per entrare in banda. E, che diciamo, ora faccio una domanda banale, no? Certo. Cioè, la musica che si faceva, che si suonava in banda all'epoca in cui sei entrato, era chiaramente musica da banda, però vogliamo chiudere qui la puntata, musica da banda, certo. Ci vuoi ricordare siccome tu hai detto che avete anche raggiunto dei livelli piuttosto elevati in termini qualitativi, che tipo di musica, di autori. Io direi, per sintetizzare proprio con due parole strette, voglio fare un esempio. Se uno cita, che ne so, i Nomadi, che ti viene in mente il primo pezzo che ti viene in mente? Io vagabondo che me lo canto la mattina verso le 11. Quando si parla della banda si dice per Pasqua Ninetta, quindi Ninetta si suonava 70 anni fa e si sono ancora accordati. Ascolta Paolo, però ti dobbiamo chiedere una a cappella, ci devi fare un pezzettino di Ninetta e poi di un'altra, ma di cui parliamo dopo. Ma la vuoi subito? Sì. Allora, tra l'altro, questa qui la facciamo in un'edizione raddoppiata, anche di più, quando c'è il volo in chiesa, ovviamente. Infatti, non si sente niente. No, ma non è vero. Guarda, volevo proprio, avrei introdotto l'argomento. Per me, io non sono mai appartenuto, non ho mai avuto accesso alla banda. È una cosa per cui io vi invidio tantissimo, perché voi vedete il Resurrexit, la notte di Pasqua, da un posto assolutamente privilegiato. Io devo smentire clamorosamente. Perché? Perché io non l'ho mai visto, in quanto devo stare lì per dare il via. Quindi guardare loro quando alzo l'occhio è già piazzato lì fermo, immobile, quindi io non vedo proprio niente. Però quegli altri che hai davanti sicuramente forse se lo godono un po' di più. Ma no, perché dovrebbero guardare lui che dà via. Ma tanto ha detto che non si sente nulla, quindi dovrebbero, ma dovrebbero, non guardano. Non guardano, no, assolutamente. Io mi sbraccio, continuo, canto tutto da solo per cercare di. Ogni tanto qualcuno qualche nota ce la mette, comunque alla fine viene, insomma. Ecco, sì. Quindi sì. La musica della banda rimane sempre a banda. Poi, ovviamente, dopo ci si ritornerà sopra quelli che sono l'attività della banda stessa. Ma io voglio ritornare ancora un pochino indietro col pensiero, perché era una cosa che mi piace ricordare, anche perché ho visto in questi giorni passare su Facebook una fotografia che nel lontano 1953, quando ancora io non ero entrato in banda, però gli elementi che erano lì l'ho ritrovati tutti dopo. È una delle rare foto dove si vede il famoso Fati, Emilio Baini, Fati, senza il suo cappello, il mitico cappello che lo teneva sempre un pochino sulle 23. Quindi su queste cose qui ho visto tutti gli elementi che io riconosco tutti, e qualcuno su Facebook ha messo anche un nome di un maestro che non esiste, perché all'epoca era il maestro Faldelloni. Per tornare un attimino poi più avanti, quando sono entrato in banda io, ci sono delle cose, come ho detto prima, degli aneddoti speciali, particolari, a parte il discorso del vino. C'era il periodo dove ci saranno i famosi assenteisti. Sì. noi ragazzi non si vedeva l'ora di andare il venerdì alla prova, era un momento anche per uscire di casa, quindi ritrovarsi insieme e dopo la prova fare il salto alla cavallina, lo staffo del militare, cioè, bellissimo, era una cosa bellissimo. Bellissima. Divertiva fare queste cose qui perché non c'era altre cose qua. E una di quelle persone straordinarie che non c'è più ormai, ci ha lasciato da qualche tempo, ma non tanto, 2 o 3 anni, una persona cara per me, il mitico Franco Gervasi, Colombone per gli amici. Sì, certo. Io lo ricordo, suonava prima la tromba e poi dopo era passato al bombardino. A sentista perché? Perché veniva quando veniva tanto. Ma poi c'aveva da fare, lui c'aveva tante altre attività, il carnevale, la politica, il lavoro. C'erano troppe cose. E il maestro che qualche volta si dava da fare insieme al Borgogna, vedeva di raffinare un pochino quella marcia, dargli un po' di colore, qualche cosa. Lui arrivava all'ultimo, prendeva quei bombardino, sparate a rotta di collo. E il maestro, ma guarda, no, no, va bene così, no, no, no. Alla Colombone, io dico sempre. Ma lo ricordo con affetto, ovviamente. Certo, certo. Altro. Quindi è un personaggio straordinario anche per queste cose. Certo. Sicuramente. Senti Paolo, siccome noi stasera non ce la faremo a dire tutto quello che avremmo voluto dire, e anche con te faremo un'altra puntata sicuramente, però per dare diciamo un po' di per far capire anche agli amici a casa il ruolo della banda Foiano, quanto sia importante, quanto è importante per chi ancora non l'avesse capito, ci dici un po' quali sono diciamo le vostre priorità, come posso dire, aiutami Marzi, le vostre attività. Grazie Paolo, grazie Marzi, grazie Mario. Grazie Mario. Allora La banda si distingue in 3 momenti particolari. Uno è quello istituzionale, dove la banda è presente nelle manifestazioni religiose, nelle manifestazioni istituzionali, eccetera. Quindi la banda nata come era nata, per queste cose qua. Quindi a disposizione dell'amministrazione comunale, a disposizione delle associazioni. E questa è una fase, una parte. Poi c'è un'altra parte che riguarda le cose un pochino più frivole, e quindi il carnevale, il divertimento, la banda è questa, certo, si distingue in queste cose. Poi una terza fase è quella dove la banda è più diciamo attenta, e si spera che stia sempre più attenta, nei momenti dove si fa i concerti allegio, cosiddetti concerti allegio, che prima non si facevano, ma adesso da qualche anno questa parte che sono anche molto belli da gustare. L'arco dell'anno quante uscite farete? L'arco dell'anno noi addirittura l'anno scorso ho fatto, mi sembra, 26 uscite, quindi è anche un impegnativo. Oggi quanti componenti ha? Oggi siamo intorno ai 40 componenti, 35, 40, 30. Poi però purtroppo ci sono dei momenti dove la banda non è questa, perché i tempi sono cambiati, molti ragazzi giovani oggi, mentre prima ai miei tempi tra virgolette finita la scuola si andava a lavorare, quindi c'era anche la possibilità di stare un po' più di rimanere in zona, oggi i ragazzi invece studiano, fanno il liceo, poi l'università, e quindi è più difficile, poter continuare. Faccio una riflessione prima con Enzo, dico, noi ci manca oggi una generazione, anche due, perché ci manca tutta la generazione dei trentenni e forse anche di qualche quarantenne. Oggi abbiamo tutti ragazzi giovani, 16, 15, 17, 20 anni, e però su questi... Ancora è presto poterci fare affidamento. Presto è difficile farci anche affidamento, perché poi magari siamo 30, 40 a fare il concerto, poi c'è da fare un servizio funebre, fra virgolette, o una processione. Per liberare uno strumento. Ma oggi purtroppo si libera perché ognuno compra per sé lo strumento. Ma ora, scusa, una piccola chiosa. Se uno poi però volesse anche avvicinarsi alla banda e a imparare anche un po' di musica, voi potete anche, certo, aiutare in questo senso. C'è una scuola di musica anche qualificata. Tra l'altro dirò che bisogna sfatare questo pensiero qua, che si studia da giovani. Non è vero. C'è gente che ha una una certa età adulta che si è messa sotto e impara lo strumento. Ci dai una speranza, via, ci dai una speranza allora, anche a noi io, giovani quarantenni. Sì, questa mi manca, ma potrei anche... Io tra l'altro mi sono già preparato, mi iscriverò al prossimo corso di scuola di musica perché mi manca un basso e quindi io passerò. Devi fare anche al tamburo, a suonare il basso. Perfetto. Tanto, quelli che il tamburo l'ho trovato, che mi sostituisce. Quindi, benissimo. Paolo, il prossimo strumento è il prossimo strumento sarà il basso. Bene, e noi invece andiamo con la prossima canzone che ti è già partita. Perfetto. Singing cowboy, got a lasso in your hand, will you ever understand it, son? Do or die for, this life is up to you. So when you say, abbiamo fatto un salto nella scena californiana degli anni 60. Ho visto la faccia di Marzi, scusate. Il salto sicuramente l'ha fatto anche... No, stai calmo, stai calmo. E non appoggiarti. Certo. Mani alzate, fermo, trattieni il respiro perché... No, no, di chi erano? Dai, su, fai... I Love con Singing Cowboy. Che poi Love vince sempre, l'amore vince ma sempre. No, ma non sì, sì, prima no, di buttarsi in sicuramente caso, in Love. In questo caso no. Però è un momento, ora raccogliamoci, perché è un signori, momento particolare. Attenzione. Io mai mi sarei pensato, dopo tanti anni, di che poter di poter far rincontrare, guarda, una carrambata, perché abbiamo in studio il presidente della Filarmonica Pimma Scagni, Paolo Bernini, detto lo Stregone, ma dopo tanto tempo, non quantifichiamo, ma tanto settimane, tempo, settimane direi. Paolo, una sorpresa per te, perché al telefono chi abbiamo, Marzi? Abbiamo il figlio Riccardo, Riccardo. Lo Stregone Junior. Ciao Riccardo. Ciao amici. Da tanto lontano. Tuo papà è qui. Che bello. Ma non lo vedo neanche stasera, però. Come? Non lo vedo neanche stasera. No, no, però vedrai. Ma lo sento, il cuore di figlio batte forte. Ah, che bellezza. Allora, perché Riccardo, oltre ad essere un caro amico che ha già partecipato sempre come ospite telefonico altre volte, è membro della banda. Stato membro della banda. Ancora nell'organico. Ancora nell'organico. Che strumento suoni, Ricca? Ma per il momento il telefono, perché sì, appunto la distanza è enorme. Io sono un tamburino dentro la banda. Quindi, quindi percussioni. Prosegui, sì, prosegui, insomma, sulle orme di Paolo, del babbo, giusto? La linea di sangue non si interrompe con la linea di mamma, diciamo. Oh. Sì, continua la tradizione di famiglia. Raccontaci un po' come mai, beh, come mai me lo immagino chi ti ha fatto entrare anche, ma come sei entrato in banda? Con un ricatto, nel senso che io non ci volevo andare, mio papà mi ha obbligato, io ai tempi suonavo il pianoforte, però vedi, però col pianoforte era un po' scomodo fare le percussioni, perché anche a tracolla è impossibile, a spingerlo era ancora peggio, sì. E quindi mi disse, vabbè, guarda, a me serve uno che suona la gran cassa, viene a suonare la gran cassa. Chiaramente io avevo 13 anni, se non ricordo male, sì, sì. E la gran cassa era forse due volte me come dimensione proprio dello strumento. Un po' come era successo a Paolo qualche anno prima. Esatto, la storia è sempre la stessa. Mi ricordo che andavo con uno zaino per fare la contrappesa, perché sennò sarei cascato bocconi sopra la cassa. Infatti si è fermata la crescita. I primi ricordi che non sono che io andavo forse fuori tempo, ma tenevo il tempo a forza di capaccioni che un po' al mio babbo, sempre percussioni erano. Sì, quando sbagliavo il tempo, porta una legnata, fai capo il collo e ripigliavo il palo. E questo era il solfeggio, praticamente. Solfeggio, 1, 2, 3, porta. 1, 2, 3, porta. E pari, come metodo, devo dire la verità, non è Montessori, ma è efficacissimo. Bellissimo, bellissimo. No, e poi mi ricordo veramente con grande gioia, insomma, il primo concerto, la grande emozione di presentarsi al pubblico foianese, che non so se l'avete detto, ma uno dei pubblici più esigenti. No, questo ancora. Ancora non l'avevamo detto, non l'avevamo detto. Sono tutti melomani, grandi conoscitori, profondi conoscitori della musica colta italiana e non solo, e quindi ci fanno sempre le pulci, soprattutto sulle operette, non si toccano le operette a Fogliano. C'è Paolo. Confermi Paolo? Sì, anche ora, figurati. Sì, certo. Insomma, guarda che Piazza Alta, c'è il pubblico di Piazza Alta della Collegiata, è peggio che il loggione della Scala. Io sono stato anche alla Scala, anche Piccioni. Il pubblico è meno efficiente a Milano che a Foiano. Bellissimo. Ascolta, hai fatto molte processioni col tuo babbo. Mai quante. Ma Paolo, raccontaci di quando passavate, così ascolta anche Riccardo. Sì, no, questa è una cosa bellissima, bellissima. Insomma, c'era qualcuno che si arrabbiava, il maestro poi specialmente, passando per via Ricasoli, a un certo punto c'è dalla parte opposta di via Ricasoli, via Cairoli forse, sì, c'era una vineria, un vinaio, una bettola, perché prima c'era Ficocco e poi c'è andato il Noli e dopo Moschino eccetera. Allora aveva l'ingresso anche dalla parte di via Ricasoli, dove c'era la cantina. Ovviamente, siccome gli strumenti a fiato avevano bisogno parecchio, mi ricordo i melacci, mi ricordo i dringoli, mi ricordo tanta gente che ormai non ci sono più. E arrivati lì, chissà per quale ragione, portone aperto, entravano dentro e spariti buonanotte, tutti. Il maestro provava a dar via, però non c'era più suonatore. Che mai detto più vero, buonanotte suonatori, perché... meraviglioso. Se riprendevamo un piazza alta perché ci aspettavano la subita salita al giro dopo. Certo. Ascolta Riccardo, noi ti salutiamo perché so che sei anche impegnato, però ci devi fare una pubblica promessa che riprenderai lo so, è una carognata, riprenderai presto. Se si ricorda Ninetta. Ah, bravo. Il Tubavo, tra l'altro, oltre a questa promessa ci chiede anche di ricordare come fa Ninetta e di farcela un po', un pezzo, a cappella. A cappella, allora fa così Ninetta. Questa è la versione. Questa è quella. Questa è quella versione velocizzata, però. La versione volo, ma i tempi radiofonici impongono, certo, diciamo, certo. La brevità. Vabbè. Ricca, noi ti ringraziamo. Guarda, ringrazio io voi. Vorrei solo dire una cosa, se mi è concesso. Tutto. Ricordando come dire, appunto, l'additivo che si usava per i suonatori di fiati. Il buon Giuliano Giustini, che per me è un maestro di vita, insomma, mi ha insegnato modi di dire che sono stupefacenti, degni del miglior pavese, chiamava il vino, lo chiamava il bismuto. Il bismuto, meraviglioso. Mi disse, così, ma Giuliano, ma si può andare in processione con la bottiglia di vino? E lui mi disse, il vino, ricorda sempre, è la condizio sine qua non. E con questo ti salutiamo e ti ringraziamo. Questa filosofia spiccia. Grazie amici, è sempre una gioia. Ciao Riccardo, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, no, ciao, ciao. Noi andiamo ciao. Con il bollettino dei naviganti. Sì, il bollettino dei naviganti è con vino. Esatto. My cell is ringing, no idea, need to know who's calling. My garden's overgrown, I go out on my belly crawling. I got CCTV, pornography, CNBC. I got the nightly news to get to know the enemy. All I want is a picture of you. All I want. dei gruppi preferiti, se non il gruppo preferito del nostro Simone, ovvero U2 o U2 che dir si voglia, con Fats Cars. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato, che chiude la scaletta di questa sera. Marzi, cara Sara, riprendo subito la parola perché devo salutare, devo fare dei saluti. No, rimani, dai, non andare via. No, mi sono trovato bene, ma si è fatto tardi. Un saluto a Tamara, a Paolo Mirabella, Rosi, Rachele, Edi, Michele e il salone acconciature unisex. Ecco perché, Marzia, hai avuto questo caso, questo tentennamento finale. Che cosa ti ha messo in imbarazzo? Dici. No, il concetto proprio dell'acconciatura. E luccica, poi. Ma è solo il neon. Paolo, torniamo a noi. Torniamo a noi. Uno degli argomenti fondamentali della nostra trasmissione, oltre che i fatti, sono i personaggi. I personaggi. E la banda in tutto questo trascorso. Riprendi la Sara, per favore, perché mi sembra indicata per fare un bellissimo spot pubblicitario. Scusa, no, ma guardava me. Non vi preoccupate. Forse gli ha detto dei personaggi. No, dell'acconciatura. No. Ah, perché la mia è la tua. Sì, è un po' più mesciata sulle punte. Ti dicevo, Paolo, è caldo qui dentro. A noi piacciono tantissimo gli aneddoti, ma soprattutto i personaggi, e sono sicuro che in 300 e passa anni di vita la banda di Foiano ha annoverato nei suoi scranni dei personaggi inenarrabili, mitici personaggi. Ce ne vuoi ricordare qualcuno? Ma sì, io lo ripeto, il personaggio più nominato, come si dice nel gergo, richiamato alla memoria, è il mitico Fati. Mitico Fati, che oltre che bravissimo piattista, aveva un orecchio a parte grosso, proprio come Fati, ma proprio l'aveva nel sangue. Come suonava piatti lui, no, non c'è nessuno al mondo. E poi, quando era un pochino su di giri, cantava la famosa Mosche Mora, che cantava con la chitarra, suonava. Mitico Fati è stato un personaggio favoloso, storico per la banda. E venendo ai nostri giorni? Venendo ai nostri giorni, il personaggio tipico possiamo annoverare giovane, tra virgolette, Alberto Ceccherini, per gli amici di Indella. Ah. Ecco, a proposito di quello che si diceva prima, Indella è uno di quei ragazzi che entra, ragazzi, ma già da adulto, a suonare con quei ditoni belli. Che strumento suona? Il clarinetto. Ecco, io lo conosco abbastanza, ma ha dei ditoni veramente enormi, ma soprattutto anche fa un lavoro che certo, diciamo, potrebbe sembrare che col clarinetto abbia poco a che fare. Sì, no, ma allora la cosa straordinaria di Alberto, questo qui che ora è in pensione, ma quando lavorava e faceva il meccanico, con quei ditoni sempre sporchi di grasso. Ma nel senso buono, certo, è lavoratore, dire. La passione lo porta via. A volte si mette sotto, suona, non si sa che cosa, ma fa delle note incredibili, entra in sala di musica e comincia a suonare, si invia qualche un volta, precursore della dodecafonia. Sì, qualche volta dico: Alberto, noi te chiudi, se va via. Lui ah, dice: ma siete qui? Non avevo visto che arriva. È personaggio straordinario, Alberto e Nidella è favoloso per i giorni nostri. Poi altri personaggi tipici, a parte lo stregone che ha sempre le sue stravaganze, intanto esce fuori dalle righe. Poi sono uno di quelli un po' diciamo non innovativi, ma mi piace le curiosità, mi piace studiare qualche cosa. Io ricordo negli anni 70 la prima banda che ha messo dentro le proprie file le ragazze è stata Foiano. Voi perché c'era un bel gruppo guidato da allora il maestro Dal Borgogni, voi perché l'idea era questa qui. Abbiamo messo mi piace anche ricordarle queste cose. Certo. Era perché comunque fino a un certo punto è stata anche una cosa insolita. No, la prima banda a mettere nelle proprie fila le ragazze. Hai dei nomi? Di nomi: la Batti Claudia, la Vannozzi Doria e la Franceschini Silvia. Dopo ne è arrivate altre. Ma la curiosità era questa qui, che nessuno ce l'aveva queste ragazze. Certo, tra l'altro, certo, devo dire, anche brave. Dopo si sono sposati, chi è andata via, noi siamo rimasti senza un sassofono contralto, senza, ecco, un sassofono, ecco, senza, ecco, due clarinetti. Purtroppo questa è la storia, va avanti così. Noi, Paolo, purtroppo, come previsto, siamo oltre ogni limite. Ma noi la promessa è che torneremo a parlarne. E se te sarai il nostro ospite, noi saremo molto contenti di questo. Anche perché ci sta da parlare della settimana musicale foianese, del carnevale e di tante altre cose, della tua presidenza che si è svolta in due periodi. Sì. Ora attualmente sei presidente, ma lo sei stato anche in un altro periodo. Sì, ci raccontavi. Un periodo abbastanza breve, da 70 a 90. Giusto il tempo da ambientarsi. Ricordaci solo chi è il maestro attuale. Il maestro attuale si chiama Andrea Meucci. Okay. Ma è vero, Paolo, scusa, io ho avuto notizia che ambirebbero a questo posto anche Beppe Vessicchio e Mazza. Vince Tempera, Vince Tempera. Ha mandato un video come promoto, ma non va convinto. Però, ma no, poco. Secondo me devono fare richiesta al sindaco. No, ma gli manca un po' di esperienza e qualche appoggio politico. Richiesta al sindaco. Sì, vabbè, ora io però il nuovo sindaco, vediamo un po' se con lui riusciamo a introdurre qualcosa di nuovo. E così lanciamo anche l'appello. Se mi permettete, Paolo ha detto una cosa che vorrei riprendere, non lasciarla cadere così, perché mi è piaciuta molto e questo può essere una cosa su cui riflettere. Un uomo di musica come può essere Paolo, che abbiamo qui stasera, a cui piace uscire fuori dalle righe. Bravo, del pentagramma. Esatto. Fantastico. Ma pensa a noi ad ascoltarti ancora. Ma pensa a bello. Fantastico. Paolo, grazie mille davvero. Grazie a voi. La promessa è che ci ritroveremo fra qualche tempo per continuare a raccontare. Quando volete, io sono a disposizione. E noi invece diamo appuntamento ai nostri ascoltatori a giovedì prossimo, certo, per una nuova puntata di Piazz'Alta. Domani, tarda giornata, sulla nostra pagina Facebook con il podcast. E poi in settimana video. Sul canale YouTube, gli appuntamenti per il fine settimana, il lunedì da Leoni. Siamo fuori tempo, dobbiamo... Ma tutto questo da quando? Da quando? Sulle frequenze di Radio F, buon ascolto. Sulle F frequenze. Dal... Pi, pi, pi, pi, pi. Da 1976. Avete ascoltato Piazz'Alta, un programma di e con Sara, Marzi, Enzino e alla conduzione tecnica Simone. Oni, oni, oni.